al tour con Ivan Basso. Appuntamento in esclusiva con il Tour de France di Ivan Basso su Radio 24. Oggi la prima tappa pirenaica con arrivo all'Usar di Den. Vince Sanchez, Frank Schleck arriva terzo, ma quarto posto per un ottimo Ivan Basso. Ivan, ben ritrovato. Beh, allora non scherzavi, la gamba c'è davvero, quando ce lo dicevi nei giorni scorsi. Ma non scherzavo. Abbiamo cercato di fare la nostra corsa. La mia squadra è stata bravissima dall'inizio a rotazione, i miei compagni mi hanno protetto nella prima parte della corsa, poi ho avuto con me tre compagni sul Tourmalet e infine l'ultimo Smith nella salita di Losar di Den, quindi io sono riuscito a finalizzare bene nel finale il lavoro dei miei compagni e sono molto soddisfatto. È sicuramente un passo avanti, solo il primo passo però, perché domani c'è un'altra tappa difficile, dopodomani ancora di più, e quindi bisogna, come ho imparato nei 7 tour che ho fatto, vivere la giornata. Chiaramente questa sera tutti noi della Liquid Gascannone andiamo a letto col sorriso. Ti abbiamo visto intorno ai 3 km dal traguardo parlare molto con Cadel Evans, forse perché avevate visto che la gamba invece di Contador non era poi così brillante. Ma sai, ci siamo detti, io avevo usato Smith per tutta la salita, se si può definire così, quindi era giusto che insomma anche qualcun altro con davanti Sanchez e Frank Schleck prendesse in mano la situazione. Io personalmente e come squadra noi oggi abbiamo dimostrato di esserci in questo tour, come ho detto, per noi una giornata molto positiva. Ti chiedo ancora una valutazione sulla prova di Contador, a cui hai strappato una decina di secondi preziosissimi. Ma io credo che Contador abbia sicuramente pagato tutte le cadute di questa prima parte di tour. Non dimentichiamoci che quando si cade il corpo per qualche giorno ne risente, quindi io starei molto molto attento a dare dei giudizi così frettolosi sulla forma di Contador. È chiaro che oggi non è stato il Contador che conosciamo, però ha sicuramente tempo nei prossimi giorni, quindi io personalmente penso a me, penso alla mia squadra. Questa sera sono contento perché ho avuto una risposta positiva della mia condizione, della condizione dei miei compagni, in vista delle prossime tappe. Domani si arriva a Lourdes e domani sera dopo la tappa ci sarà anche una fiaccolata presso il celebre santuario. Un appuntamento particolare, ti emoziona questa cosa? Ma sicuramente, quando si parla di Lourdes è sicuramente qualcosa di speciale, che colpisce, che fa riflettere, che fa pensare, e quindi è un momento speciale per tutti. Allora Ivan, noi intanto ci ritroviamo dopo il traguardo di Lourdes domani per sapere com'è andata dalla tua viva cronaca in esclusiva per Radio 24. Va bene, buona serata a tutti.